con il sole e con la pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Insomma, io non potete dire che non me lo dico da tempo, da moltissimo tempo, che non ci sono più le mezze stagioni. Nel senso che non è solo che non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che noi la primavera non l'abbiamo vista, ce l'hanno scippata. Qualcuno al sud l'ha intravista, ha detto, ma io l'ho vista passare. Al nord sicuramente no, in Lombardia tantomeno, e anche un po' verso il centro. Ma vi dicevo, non è soltanto che non ci sono più le mezze stagioni, quindi la primavera non si è vista, è che si torna indietro. Nel senso che dopo l'inverno c'è l'autunno, quindi una specie di circolo viziosissimo. Noi non lo vogliamo, noi vorremmo un circolo virtuoso, vorremmo tornare un po' più a una linearità, no? Quando si dice sì, voglio qualcosa di diverso, voglio cambiare, eccetera. Su questo, possibilmente, sulle stagioni, è possibile fare un appello perché siano, anche se il mio titolo rimane naturalmente, perché anche naturalmente in senso metaforico, è possibile far ritornare nella normalità, almeno le stagioni. Ecco, questa è una normalità che in genere ci piace. Roberta Giordano con voi un po' col fiatore, perché a volte capitano delle cose che chi ascolta non può sapere. Ero rimasta chiusa fuori dalla radio, quindi ho dovuto fare tutta una corsa, chiamare i centralinisti, giù in portineria, ho fatto le scale praticamente a 300 all'ora. Se non fosse una runner penso che avrei avuto uno sciupun, come si dice qui in Lombardia. Ma eccomi, viva e vegeta a voi, per ricordarvi che questo è il nostro appuntamento del sabato, come sempre in diretta, per riconfrontarci un po' sulle notizie della settimana, sulle cose che sono avvenute, per trovare il tempo in libertà di esprimere le vostre opinioni all'800 24 00 24, un numero, lasciatemi prendere fiato, verde nel senso gratuito ma anche ecologico, perché evitate di disperdere nell'ambiente tempo, energie, risorse e pensieri. 800 24 00 24. Le notizie naturalmente sono moltissime, si parla sempre della crisi, anche perché il presidente di Confindustria Squinzi ha lanciato l'allarme, dice anche il nord è sull'orlo del baratro. Però vedevo oggi sui titoli dei giornali online, ecco, per esempio il Corriere, che Squinzi dice l'Italia è in difficoltà, ma con Letta si può rimediare agli errori del passato. Questa è una grande speranza. Staremo a vedere. Intanto Letta ha debuttato in Europa, lo sapete, ha detto la priorità è il lavoro. A luglio ci sarà questo vertice dell'Unione Europea sul lavoro e il governo sembra accelerare sulle riforme. Sembra, in realtà ci sono tensioni sulle imposte, sulla legge elettorale. Poi ci sono nel frattempo elezioni amministrative in città importanti, tra le quali Roma e Ancona. Il Consiglio dei Ministri è stato un primo stop al finanziamento pubblico ai partiti, poi vediamo quando le cose si concretizzeranno. Sapete che poi ci sono state un po' leggine incrociate per far fuori quello, far fuori quell'altro, qualcuno dice no, non è vero, siamo in buona fede, poi lo vedremo magari discutendo. Oggi un senatore del PDL aveva fatto la proposta per il concorso di mafia di dimezzare la pena, per il concorso esterno ad associazione mafiosa, per fortuna poi è stata ritirata, ci sembra il minimo. I vari processi, processo Mediaset su Berlusconi, i giudici hanno spiegato la sentenza della condanna perché hanno detto che per anni ha gestito anche da premier un'enorme evasione fiscale. Anche la Cassazione ha spiegato quali sono le motivazioni per cui non hanno spostato i processi da Milano a Brescia. Ha detto la Cassazione che ha cercato di usare tecniche dilatorie, cioè per rimandare i processi. Lui dice, insomma, se ci fosse buon senso bisognerebbe giudicarmi innocente. Poi sapete, anche per il processo a Monza contro Penati del PD ha incassato la prescrizione. Qualcuno dice per colpa della legge Severino, ma lui aveva detto che non avrebbe accettato la prescrizione, dice ricorrerò in Cassazione. Io non l'ho capita bene questa faccenda, cioè non poteva dirlo subito che lui non vuole la prescrizione, presentarsi in udienza e dire no, non mandatelo in prescrizione. Cose un po' arzigogolate sempre italiane. Poi sapete che l'Istat ha sancito che in Italia c'è un boom di cosiddetti NEET, cioè giovani, molto giovani, che non lavorano e neanche studiano, un grosso modo tra i 19 e i 24 anni. Poi un quarantenne su quattro vive grazie alla paghetta dei genitori. Vi sembra possibile questa cosa? Io non so più in che paese siamo, al di là della crisi in generale. Poi all'estero il tornado in Oklahoma, in Gran Bretagna il soldato ucciso a colpi di macete. A Notre Dame, quel chiamiamolo intellettuale di estrema destra che si è suicidato sull'altare di Notre Dame perché era contro i matrimoni gay. Voi pensate che gesto, insomma, si è autoeliminato. Ho detto, non sono d'accordo, si è autoeliminato. Vabbè. Poi L'attacco ieri a Kabul in Afghanistan contro ambasciate occidentali, in cui è rimasta gravemente ferita una funzionaria italiana, e una grave, immensa perdita, commentata molto anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, la scomparsa di Don Andrea Gallo. Come faremo senza di lui? Questa è una domanda che mi pongo. Adesso però direi anche di dirci, come sempre, perché anche questa settimana è comprovato che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Siamo anche solo sul dato meteorologico. Vi dicevo, il maltempo a nord è tornato l'autunno, è quasi inverno, è nevicato sulle Dolomiti. Acqua alta a Venezia, il Garda è esondato. Confusione generale, sarà la crisi, sarà colpa della crisi, di chi sarà colpa di questa stagione barlocca? Non per niente, quindi si sono concentrati degli studiosi di Stoccolma, una ricerca che poi è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, si sono concentrati sul DNA dell'albero di Natale. Il tempo effettivamente è congeniale a questi studi sull'albero di Natale, dicendo che ha un genoma 10 volte più lungo di quello umano, così lo sappiamo dall'albero di Natale in anticipo nel caso poi volessimo cominciare a mettere le palle tra poco, visto che questo è il tempo. Ma direi che ci dice anche che non ci sono più le mezze stagioni tutte queste notti di violenza nelle periferie di Stoccolma. La Svezia, vista da tempo come un paese non solo avanzatissimo, civilissimo, ma anche di grande integrazione, qualche problemino, forse la crisi lo ha portato anche lì, ma speriamo sia passeggero, almeno per avere dei punti di riferimento, insomma, con cui consolarci, ai quali guardare come dei fari. Bene, direi che a questo punto, ascoltatrici e ascoltatori, mentre vi ricordo il numero verde 800 24 0024, è tempo di annunciare l'opinionista estemporaneo di oggi. Caro Gianni Riotta. Buongiorno. Buongiorno Gianni, sento serissimo nel tuo buongiorno. Buongiorno. È il tempo che non ti... perché sei in Italia, no? Non sei negli Stati Uniti. Guarda, sono a Carpi. Sì. Dove un anno fa c'è stato il terremoto. Io ero stato qui al terremoto, mi hanno rinvitato sia a Mirandola che a Carpi per parlare di ricostruzione, e la Coop Estense ha regalato alle scuole 1 milione di euro per dare kit digitali, lavagne elettroniche, computer, tablet, perché i ragazzi possano studiare con i kit digitali. Siamo andati a capire come si può fare scuola digitale e devo dirti che sono veramente felice di essere qui, di essere italiano, perché l'anno scorso ero qui con la macerie sino al collo, e nella stessa scuola, per esempio la Galileo Galilei di Mirandola, sono state ricostruite, non più grazie alla Coop Estense hanno un kit digitale per studiare. Quando le vogliamo, italiani, siamo veramente bravi. Ci vorremmo un po' più di volontà, di iniziative, di idee. Gianni, editorialista della Stampa, Gianni Riotta, è stato direttore del TG1, anche del Sole 24 Ore, ed è docente, per questo gli chiedevo dove era in questo momento, alla Princeton University e alla IMT, Istituto di Alti Studi, Istituzione Mercati e Tecnologie di Lucca, e ha da poco pubblicato un libro, Il web ci rende liberi, politica e vita quotidiana nel mondo digitale. Poi tra poco glielo chiediamo a Gianni se effettivamente il web ci rende liberi, ma intanto, secondo te, Gianni, il Papa è grillino? No. Secondo te no? Perché ha detto Grillo. No, no. Se l'ha detto lui, uno dice Grillo. Gliel'avrà detto il Papa. Secondo me. No. No. No. Tu ripeti la domanda. Qual è la domanda? Il Papa è grillino? E la risposta è no, ma non secondo me. No. È come se tu mi chiedi, ma secondo te 2 più 2 fa 4? Non è che tu, secondo me, fa 4. Fa 4. Papa non è grillino. Il Papa non è grillino. E ti dico di più, Grazie a Dio. Senti, allora già abbiamo capito un po' come la pensi sul Movimento 5 Stelle, però Grillo, tra l'altro... No, ma sarei ugualmente preoccupato se Papa fosse berlusconiano o del Partito Democratico. Mi auguro che il Papa super sia... partes. Sì, bene, o Montiano, mi auguro che il Papa sia cattolico. Ma io, a proposito di Grillo, ti volevo chiedere anche di questa frase che ha detto ieri sera sul tardi, sai che ci sono state le ultime battute della campagna elettorale a Roma, e di cui non parleremo, cito solo questa cosa perché dobbiamo essere anche questo super partes, e ha detto: Cavaliere, Berlusconi attento, anzi ha chiamato attento nano, presto tiriamo le somme. Perché dice che a settembre, massimo ottobre, si andrà a elezioni e saranno Movimento 5 Stelle e PDL, perché dice il PD è sparito, sgretolato, disintegrato. Sì. Guarda, lo scontro è che Berlusconi ha chiamato Grillo capocomico, Grillo gli ha risposto sei un nano. E, diciamo sobri, sobri. Un dibattito politico che si è ridotto così è molto triste. È molto triste perché poi il paese sarebbe fosse ricchissimo, vabbè, i politici fanno un po' di show e ce lo guardiamo. Invece, purtroppo, purtroppo il paese non cresce da 25 anni, ha una produttività tra le peggiori d'Europa, ha difficoltà economiche gravissime, tu hai citato che i giovani sono disoccupati e non vanno a scuola, quindi vuol dire, sai cosa vuol dire essere disoccupato e non andare a scuola? Che sarà disoccupato per tutta la vita. Perché oppure vai a scaricare cassette, ma ovviamente non troverai nessun tipo di lavoro se né lavori né vai a scuola a acquistare le tecniche per lavorare. Allora forse il dibattito politico dovrebbe fare un piccolo salto di qualità. Ma vorrei già sentire, visto che cominciano a premere le telefonate, all'800 24 0024, Gaspare da Bergamo. Buongiorno, sono Gaspare da Bergamo. Sì, questo è chiaro. Sì. Allora, io intervenivo sulla questione del ministro. Quale ministro? Sì, Maria Grazia Carrozza. Esatto. Sì. Che avrebbe minacciato di dimettersi se non ci sono i fondi per la ricostruzione, perché di questo si tratta, della ricostruzione della scuola pubblica. A me pare che sia l'unico ministro in Italia che abbia fatto qualcosa del genere, perché tutti sembrano attaccati alla loro poltrona, no? E quindi volevo, come dire, esprimere solidarietà a questa iniziativa della ministra e a ricordare che se soldi ci sono, devono essere dati prima di tutto alle scuole pubbliche, semplicemente perché la Costituzione dice che le altre scuole possono fare quel che vogliono senza oneri per lo Stato. Tutto qui. E volevo ricordare Don Carlo, se mi è permesso. Ma molto volentieri, Gaspare. Molto velocemente. Allora, una volta Sua Eminenza chiama Don Carlo e gli dice: Don Carlo, ma com'è possibile? Lei è sempre in mezzo ai diseredati, alle puttane, ai ladri. Ai gay. Dice, ai gay. Dice, sa, anche Gesù Cristo faceva così. Gliela posso fare una domanda a Sua Eminenza? Gli fa Don Carlo. Dica, dica, quanti sono i peccati capitali? Sono sempre stati 7. No, sono 8. Sono 8. C'è anche l'indifferenza. Grazie. Grazie a te, Gaspare, grazie. Mi piace questo ricordo. Poi, se c'è tempo, vorrei leggerle anche da Facebook i ricordi delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Non ci sono più le mezze stagioni. Ma ricordo, e voglio parlare con Gianni Riotta, mi sembra domani a Bologna c'è questo referendum su scuola pubblica e scuola privata, no? Che non è vincolante, consultivo, per chiedere se i cittadini vogliono continuare a dare soldi alle scuole private per ampliare l'offerta, soldi pubblici, oppure se le scuole private, come diceva Gaspare, non hanno la priorità, i soldi pubblici vanno alla scuola pubblica. Ha ammirato la minaccia di dimissioni della ministra Carrozza. Tu che ne pensi? Diciamo così, per quanto riguarda i politici, io più che battere le mani alla minaccia di dimissioni, eventualmente batto le mani alle dimissioni, perché il nostro ascoltatore è molto appassionato, io lo saluto con piacere. I politici sono maestri nel minacciare le dimissioni. Dice, tutto un po' show, un po' spettacolo, però poi non... E quando le danno, anche se ovviamente il ministro Carrozza è una donna eccezionale, fantastica, bravissima, quindi aspettiamo la prova dei fatti rispetto alla minaccia. Sì. Io penso che il dibattito sia stato molto esaustivo ed è giusto anche rispettare la pace elettorale, quindi aspettiamo, vediamo cosa dicono i saggi cittadini di Bologna di questo referendum e poi commentiamo, perché intervenire adesso in silenzio elettorale mi sembra improprio. No, ma lì non sono le amministrative, è proprio un referendum sul quale insomma, poi non è vincolante, fra l'altro, non vincola in nessun caso. Io penso che il mandato, che le scuole private svolgono un lavoro molto molto importante, allo stesso tempo la Costituzione è abbastanza chiara, la sinistra ho visto che si è molto divisa, perché persone importanti, serie come per esempio Romano Montroni, hanno detto che loro sono favorevoli, quindi penso che ormai l'informazione sia abbastanza... capillare. Beh, sentivo che per esempio Prodi è per il sì, mentre Guccini è per il no. Bologna si stanno dividendo in questo modo. Senti, diciamo, allora, se vogliamo dire così, se tu mi dici chi è più esperto a cantare, ti dico Guccini, chi è più esperto di scuola, Romano Prodi. A proposito di scuola, il tuo libro Il web ci rende liberi riguarda più la politica, la vita quotidiana, insomma, per la scuola il web ci rende più guarda, liberi. Allora, abbiamo parlato prima di questo giornata di lavoro fatta qui appunto nelle zone terremotate a Carpi, Mirandola, con Coppe, Stenze, proprio sull'investimento nella scuola digitale. Il futuro della scuola è nel digitale. Io insegno, come dicevi tu, a Princeton, anche se da neofita. Il presidente del Board of Advisors, Stephen Dreyfus, mi diceva: guarda, il treno dell'educazione digitale è già partito e chi non sale in gran fretta resta sulla banchina. Alla Columbia University ho seguito il corso di Sri Srinivasan, che è un professore di origine indiana, il quale insegna alle università ad entrare in contatto con gli studenti digitali. Allora, invece che magari perdere tempo tra scuola privata e scuola pubblica, dovremmo tutti, scuola privata e scuola pubblica, università pubblica e università privata, metterci a lavorare rimboccandoci le maniche sul fatto che noi siamo un grande paese, l'università digitale, cioè seguire i corsi online, è per noi una grandissima opportunità. Noi abbiamo l'università più grande, la più antica università del mondo a Bologna, la più antica università statale del mondo è a Napoli, cioè noi abbiamo la più antica università privata, diciamo, e la più antica università statale, ce l'abbiamo tutte e due in Italia, Bologna e Napoli. Allora, invece che litigare su queste cose che magari sono marginali, perché non facciamo un gran referendum su portiamo online tutta la scuola, tutta? Ho l'impressione, capisci, che nel nostro pedigree, nel nostro passato, nel nostro DNA c'è l'invenzione, inventiamo l'università Bologna, inventiamo l'università pubblica a Napoli, e che invece spesso oggi noi ci dividiamo su cose minori, sì, anche e non se, mettiamo la sfida digitale. Anche se pensavo, Gianni, che sulla questione del finanziamento pubblico, insomma, non sono proprio quisquilli, dal momento che i soldi sono sempre meno, bisogna anche decidere, certo, dove direzionarli, no? Quindi, certo, non è proprio, diciamo, lana caprina, anche se è vero che poi le questioni in campo riguardo alla scuola e all'istruzione sono molte, sono molto importanti, però questo forse è alla base. Quando ci sono i soldi, forse poi si riescono a fare anche le altre cose. Ma sentiamo Angelo dalla provincia di Bergamo, sempre all'800240024. Angelo. Grazie Roberta. Grazie a te. Buongiorno direttore, la vedo spesse volte in TV, politicamente molto preparato, i nostri politici dovrebbero ascoltarlo un po', perché veramente quando dice delle cose sono veramente sensate. Praticamente io oggi nel pomeriggio, sul tardi pomeriggio, sarò a Carpi, mi devo fermare a Moglia, è dall'anno scorso che io in queste zone le sto praticando tramite amici, e quando si parla di Concordia, Mirandola, ma c'è Pegognaga, Quistello, Gonzaga, Moglia, paesi che hanno avuto il 35% di danni, e la propria Moglia, dove mi fermo adesso, poi vado a Carpi a prendere un prete che lo devo portare. Senti, ma come mai Angelo vai avanti e indietro dall'Emilia, se sei della provincia di Bergamo? No, io ve lo giuro, sabato, perché ho degli amici. Ah, ecco. Sì, sì, non ho capito. Sì, sì, sì. Hanno avuto dei problemi, allora. Poi abbiamo conosciuto un prete a Carpi, dove è vicino alla chiesa, monastero dove sono le suore, che lì è giù metà, e lui ha un appartamento, e questo prete, non avendo, cioè ha la patente ma non ha la macchina, e quindi lo aiuti, portava dai una mano a Rovereto a fare la messa. Perché a Rovereto era morto il prete sotto. Questo è volontariato non pagato che io ho fatto con il cuore. Io vorrei tanto che i nostri politici facessero qualcosa col cuore, dopo 6-4 mesi che abbiamo votato, siamo qua ancora, come diceva prima il dottor Ariotta, i giovani che non hanno lavoro. Certo, le cose, svegliarsi veramente. Hai ragione Angelo, le cose non possono essere risolte in pochissimo tempo, ma mi sembra che non ci siano grandi presupposti, però non voglio fare quella per forza pessimista. Angelo, ti ringrazio e vorrei anche ricordare, colgo l'occasione, visto che sta parlando in vari momenti del terremoto che aveva colpito l'Emilia Romagna e naturalmente i strascichi che ci sono ancora, una lettera pubblicata oggi scritta dal sindaco Massimo Cialente dell'Aquila, che dice giustamente: non fate morire l'Aquila, servono 11 miliardi. Importantissimo il terremoto che ha colpito l'Emilia, non dimentichiamoci, lo dico anch'io, dell'Aquila ovviamente. C'è Martino dalla provincia di Lodi. Pronto? Martino? Pronto? Sì, sono qua. Martino, prego. La ringrazio per avermi chiamato. Prego. Io facevo questa riflessione. Sì. C'è disoccupazione giovanile, dei ragazzi dai 15 ai 29 anni che non hanno né lavoro né studio, non lavorano né non studiano. Come si diceva prima, sì. Però io vivo in un paese, in un paesino della provincia di Lodi. Come si chiama? Nella Bassa. Come si chiama? Come si chiama il paesino? Corno Giovine. Sì, Corno. Non l'ho mai sentito. Corno Giovine? No, proprio non... no, nella mia topografia. Beh, non comunque, è, sì. Comunque le dico questo. Una volta c'erano i ragazzi che, non bisogna esagerare, a 14 anni andavano a fare il garzone di muratore, andavano a fare il garzone del falegname, andavano a fare ad accudire il bestiame e tutto il resto. Io non voglio esagerare, però oggi non c'è più nessuno che va a fare il muratore, non c'è più nessuno che va a fare il falegname, non c'è più nessuno che va a accudire al bestiame nelle stalle e a mungere le vacche, anche se c'è tutto automatizzato, c'è il lavoro che possono fare in camice bianco, no? E dobbiamo ricorrere agli indiani, ai rumeni, agli albanesi. Allora cosa ci possiamo lamentare? Ho capito, Martino, chiarissimo la tua argomentazione. Allora chiedo a Gianni Riotta, come disse la ministra Fornero, facendo arrabbiare non pochi, sono ciusi quindi i giovani italiani o i problemi sono altri? Poi a parte che si dice si laureano in troppi, e proprio oggi o ieri sentivo che siamo i meno laureati in Europa, cioè il numero minore di laureati. Guarda, le questioni sono estremamente complicate. Quindi diciamo provare poi a riassumere gli slogan ti fa magari leggere al Parlamento con un sacco di voti, però poi alla fine arrivi lì e ti accorgi che i problemi sono complicati e non riesci a risolverli. Allora, quello che ha detto il tuo ascoltatore è verissimo. E soprattutto al Nord Italia tu avresti piena occupazione se i giovani italiani andassero a scaricare le cassette nei mercati generali la notte, andassero a mungere le mucche in campagna, oppure al sud si imbarcassero sui pescherecci a Mazara del Vallo. Naturalmente tutti questi lavori sono estremamente duri e implicano grandi rinunce di tipo di vita sociale e familiare, perché lavori la notte, stai in alto mare con il maltempo, vivi in campagna e quindi non vivi in città, e quindi molti giovani italiani non vogliono farli, da cui l'emigrazione che arriva. Questi lavori sono nobili sarebbe giusto che tutti li facessero. Al tempo stesso però è comprensibile che un ragazzo che si è laureato in fisica teorica non voglia imbarcarsi in un peschereccio. È comprensibile, è inutile che facciamo del qualunquismo su questo, vuole fare il fisico teorico. Allora dobbiamo cambiare la nostra scuola. Il ministro Giovannini ne ha parlato proprio ieri, ex presidente dell'Istat, perché lo sa dai numeri che leggeva all'Istat. Abbiamo lavorato insieme sulla demografia italiana per la Fondazione Nardini. Il problema qual è? Bisogna cambiare la scuola, perché attraverso un sistema alla tedesca l'apprendistato produca, attraverso la scuola tecnica, studenti che vogliono entrare subito nel mondo del lavoro e quindi prendano una scuola di apprendistato che li porti immediatamente a lavorare. Cosa ne pensi della staffetta generazionale, sempre proposta da Giovanni? La staffetta generazionale è una grande sciocchezza, perché la staffetta generazionale, vedi, implica che il saldo del lavoro sia sempre uguale. Cioè, che in Italia ci siano, l'ha scritto benissimo Alessina sul Corriere della Sera, e andare a cercare sul web, implica che ci siamo rassegnati che in Italia ci siano 100 lavori, per 100 posti di lavoro, per cui perché il giovane entri, devo andare in pensione io, perché entri una giovane, devi andare in pensione tu, sì. Ma questo è esattamente il male d'Italia. Portiamo a 1000 questi posti di lavoro, per cui chi lavora over 50 può continuare a lavorare e chi non lavora under 30 può cominciare a lavorare. Anche se io mi chiedo, scusami Gianni se ti interrompo, ma mi chiedevo, è possibile che si creino continuamente e per sempre nuovi posti di lavoro, a parte la decrescita felice di cui parlava Grillo, che ovviamente per qualcuno può sembrare un concetto un po' bislacco, però è possibile che si continui sempre a creare nuovi posti di lavoro? Come si fa tra l'altro? Guarda, io crederò alla decrescita felice di Grillo quando Grillo decrescerà, cioè quando vorrà meno voti e non più voti, quando vorrà meno spettatori ai suoi spettacoli e non più spettatori, quando vorrà meno euro nei suoi incassi e più euro. Cioè è ovvio che Grillo auspica che avere più voti, avere più spettatori e avere più incassi, e quindi quello che è la sua aspettativa deve essere lo stesso per tutti quanti. Cioè, la decrescita felice è uno di quegli slogan di cui ci innamoriamo, ma la decrescita è infelice, nel senso che meno ricchezza significa più povertà. Meno ricchezza significa più povertà. Ora è vero che magari i nostri nonni erano poveri e felici, però erano poveri e felici anche perché non conoscevano l'alternativa. Non conoscevano l'alternativa, non avevano mai visto, le donne stavano a casa a cucinare tutto il giorno e sorridevano, anche perché non avevano mai, nessuno gli aveva mai detto che potevano condurre un programma radiofonico, potevano avere una vita di lavoro, avere un'emancipazione, parlare con i propri ascoltatori, essere una persona capace di dare informazioni, no? Un mestiere bellissimo che tu fai o che io faccio. Allora, oggi noi dobbiamo... Lo slogan, la visione deve essere la crescita sostenibile, cioè noi dobbiamo crescere senza distruggere la società, senza distruggere l'ambiente. La crescita felice sono slogan, ripeto, che fanno vendere libri, ma che non risolvono i problemi. Allora, creiamo posti di lavoro, altro che staffetta sociale, aumentiamo i posti di lavoro in Italia. Prima di avere il collegamento, come sempre sapete, l'unico programma al mondo ad avere un collegamento con Marte a un certo punto, quindi tra pochissimo avremo il collegamento col satellitare. Gianni, per alleggerire un po', ti volevo chiedere, questa questione comunque ha fatto molto discutere, no? Che riguarda Franceschini, la difesa della Santanchè, che ha detto in realtà è un uomo che sa amare, quindi lo appoggio. Sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni sono stati molto critici, devo dire, ascoltatrici e ascoltatori, tranne qualcuno che ha detto, bah, vabbè, non ci sarebbe nulla di male, più che altro è che emerge sempre che la casta si autodifende, eccetera, eccetera. Tu che ne pensi di, guarda, dell'SMS? Allora, a parte che mi chiedo chi l'abbia intercettato questo SMS, non l'ho capito ancora. Perché, ma, no, comunque. Ma quello è molto facile, sai, perché le cronache dicono che Franceschini l'ha mandato a tutti i suoi sostenitori, quindi. E quindi qualche sostenitore l'ha tradito, ha detto. Ma sai, c'è una zona di confine tra PD e Grillini, no? Non è che sono tutti nemici. In più, come tu sai, il PD non è proprio un partito unito, no? E quindi magari qualche non amico di Franceschini l'ho passato agli altri. Ma guarda, io potrei dirti, io sono qui con gli amici della Coop Estense, qui proprio in Emilia, quindi potrei fare un referendum tra di loro e chiederglielo. A me sembra, rispetto ai peccati, diciamo, della classe politica italiana, mi sembra un peccato estremamente veniale, manca a me. Perfino simpatico, quindi assolto assolutamente Franceschini, anche perché se voleva fare una porcheria non mandava l'SMS. Infatti, ma anch'io penso, un conto è una raccomandazione. Vedo assenso qui attorno a me dagli amici emiliani. Voi vuoi fare il referendum, quindi il referendum è già fatto così, ma vedo un referendum di annuire. Bene. Ma sai, loro sono alle prese con un porcellino, quindi sono più appassionati al porcellino che non al porcellum. Ma che è il porcellum? Ah no, quello è proprio un porcellino vero. Esattamente, non è un vero porcellino. E allora, tra poco, mi sembra sì che il collegamento sia quasi pronto, perché la Marziana mi sa che parlerà anche del porcellino. Poi c'è Roberto della provincia di Pavia, Andrea da Lodi, Marco da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24. Riflessioni da Marte. E rieccomi come sempre, come tutte le settimane, a scrutare da quassù, da Marte, appunto col fido telescopio, il globo terracqueo e in specie, come si va a dire, il pianeta italico e le sue impareggiabili peculiarità. Quel che appare certo, anche in questi giorni, è che i politici italici si stiano dando davvero un gran da fare per salvare il paese dal baratro. E questa volta intendono fare sul serio e celermente, a cominciare dalla legge elettorale. Hanno dunque deciso di fare del porcellum, qui si diceva, finalmente prosciutti und salsicce? Ma che? Perché mai del resto essere così crudeli, hanno pensato? E se dovesse intervenire la protezione animali? No, facciamo invece le cose con garbo, devono aver pensato i politici italici. Accordiamoci intanto per trovare un accordo che ci metta d'accordo su qualche aggiustamento. Se il porcellum è così brutto, hanno certamente detto tra loro e loro, famogli un ritocchino, un lifting, un maquillage, insomma via, una cosa piccola piccola. Pecora. Pecora. Pecora, sei cose. In definitiva, il porcellum non lo vogliono proprio far fuori, diciamolo, per una certa sensibilità diffusa, verso se stessi, naturalmente. Meglio far fuori piuttosto i conviventi forzati delle larghe intese, approntando bombette qua e là. Certo che sono ben bizzarri tra tutti, almeno a vederli da quassù, da Marte. Gli uni imputano agli altri di essere comunisti, gli altri imputano a Juni, anzi a uno per la verità, di essere ineleggibile. E un giorno sì e l'altro pure si minacciano a vicenda. Nonostante le quotidiane minacce di farsi gli sgambetti, le reciproche bombette a mano, dichiarano che vogliono stare vicini vicini in questo governo. A me tutto ciò sembra, come ebbi a osservare giorni fa, mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta stringendosi un po'. E torniamo coi piedi per terra, e prima di passare le vostre centinaia e centinaia di telefonate, mi sento un po' pressata, adesso devo passare subito. Sinteticamente, Gianni Riotta, cosa ne pensi di questa questione tanto dibattuta e penso che si dibatterà fino alla fine dei suoi giorni? Uno gli augura anche siano tra 200 anni dell'ineleggibilità di Berlusconi. Guarda, io ho la soluzione perfetta per risolvere i problemi del rinnovamento della politica italiana. Ma questo è uno scoop straordinario. Sì, sentiamo. No, ma ti dico subito. Allora, c'è chi propone l'ineleggibilità di Berlusconi. Approviamola. Sai che da parte dei vertici del PD è venuta una proposta di riconoscimento dello stato giuridico dei partiti che escluderebbe il Movimento 5 Stelle. Approviamola. Ecco. Poi troviamo un cavillo per eliminare dal dibattito politico anche il PD, così abbiamo eliminato Berlusconi, Grillo e il PD, e c'è finalmente il rinnovamento della politica. Un rinnovamento totale, globale, universale praticamente. Mi piace, sono tre piccoli provvedimenti legislativi, sciogliamo i tre grandi partiti e ripartiamo da zero. Non sarebbe male, fatevi venire un po' di idee, voi che ascoltate, se volete creare partiti, eccetera, eccetera, perché potrebbe esserci questa soluzione generale. Ma intanto ripassiamo subito le telefonate, che siano sintetici, siate sintetici, ascoltatrici, ascoltatori. Tanto c'è anche la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, poi per commentare c'è Marco da Milano. Marco. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare un pochino all'argomento sulle scuole paritarie, le scuole pubbliche, sì. Così. Facendo notare un pochino questo, si parla nella Costituzione sempre, non deve esserci nessun costo per lo Stato, però ragionando e tutto dico, se tutti gli studenti, e sono tanti, che vanno nelle scuole paritarie, andassero nelle scuole statali, ci sarebbe un costo notevole in più per lo Stato. Quindi il fatto che lo Stato dia qualche cosa alle scuole paritarie è un risparmio che fa. Quindi il dare un qualche cosa è danno, e non sono grosse cifre, in senso per ogni studente che va. Lo Stato ne spenderebbe molte di più se invece le avesse a suo carico completamente nella però, propria scuola. Però dico, Marco, non è peregrina la tua osservazione, anche se se quei soldi che lo Stato dà alle scuole private lo utilizzasse ancora per le scuole pubbliche, quei soldi che tu dici, quei costi ulteriori che avrebbe, sarebbero già lì praticamente già preventivati, no? E vuol dire che per ogni studente, ogni classe in più, lo Stato dovrebbe assumere altri insegnanti, quindi non sono solo questi costi, dovrebbe assumere molti di più. E da molte statistiche che ci sono in giro, uno studente in una scuola statale costa quasi il doppio che uno studente in una scuola paritaria. Ma questa mi risulta abbastanza nuova, però voglio crederti. Provi a controllarle tutto, tolte le scuole paritarie, quelle di alta elite, dove si pagano gli 8 e 10 mila euro all'anno, la media dei costi delle scuole paritarie sono più bassi del costo per singolo alunno che c'è nelle scuole statali. Marco, io ti ringrazio, poi sentiamo cosa ne pensano, se qualcuno vuole esprimersi anche su questa questione, le altre ascoltatrici e ascoltatori. Intanto Andrea da Lodi. Sì. Pronto Andrea, eccoci qua. Sì, buongiorno, tanto buongiorno. Grazie per avermi fatto intervenire. Grazie a te Andrea, sì. Che sei intervenuto, diciamo, in tua iniziativa. Sì, sì, io non intervengo su quello che ha appena detto Marco perché non condivido il pensiero. Volevo esprimerne un altro. Sì. Dicevo in breve, facciamo attenzione quando diciamo le scuole sul web, perché anche se purtroppo oggi genitori e insegnanti non riescono più a insegnare come una volta, secondo me il fattore umano è sempre importante, quindi occhio a non deumanizzare la scuola, perché anche il compagno di banco, l'intervallo, l'insegnante che ti sgrida quando fai qualcosa di brutto è scuola, secondo me. Quindi volevo solo dire questo. Più sull'aspetto pedagogico. Grazie Andrea. E Roberto invece dalla provincia di Pavia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, per il modo di condurla. Grazie Roberto, allora, molto gentile. Allora, io volevo intervenire sulla questione dei giovani che non vogliono lavorare, fare i lavori duri, pesanti, Ecco, sì, d'accordo, questo può anche essere, però bisogna anche dire che sono pagati molto poco questi lavori, cioè sono nobili, come diceva il direttore, sono lavori nobili, giusto, sono d'accordo, ma perché sono pagati così pochissimo, ecco, a fare il muratore in effetti si ricava poco come apprendista, come inizio, ecco. Quindi un ragazzo si trova a fare un lavoro pesante e pagato poco e quindi dice ma perché? Non so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato chiarissimamente. Roberto, dimmi una cosa, sento della gente intorno a te, mi incuriosisce in questo momento sapere dove sei, che fai, se posso chiedertelo. Cosa faccio come lavoro? No, dove sei in questo momento? Sentivo della gente dietro di te, ho sentito bene? Ah, no, non c'era nessuno, sono a casa da solo. Ah, mi dicono è di Riotta, mi dicono dalla parte tecnica, però la luce, che sono i sondaggisti intorno a Riotta che avevano acclamato la sua posizione su Franceschini. Roberto, sei da solo, che fai il sabato? Che così? No, ho appena finito di cucinare per oggi e per stasera però... e poi vedrò cosa fare, perché ho delle cose da fare così extra. Mi piacciono molto gli uomini che sanno cucinare, che hai cucinato? Beh, ho preparato del bollito, per visto il tempo che c'è. Certo, è tempo di bollito e di castagne possibilmente, anche se forse non si trovano. Grazie Roberto, buon pranzo e buona cena, quindi, visto che grazie, ho preparato tutti e due. Grazie, buona giornata. Ciao Roberto. Tra poco un appuntamento immancabile, però voglio chiederti, Gianni Riotta, sai che, visto che pratichi così tanto gli Stati Uniti... Questa lunga la catena. Parli di una catena? Pronto? No, eccomi, scusi, no, adesso ti dico qual è l'idea che è nata proprio mentre ascoltavamo il tuo stacco. Sì, sentiamo, qual è l'idea? Allora, l'idea è tu parlavi prima di scuola digitale, no? Sì. E dell'importanza del lavoro e della scuola digitale. Allora, gli amici di Coppestenza hanno regalato questo kit alle scuole terremotate, no? Tutto digitale, lavagna elettronica, tablet, computer. Spesso nelle scuole i maestri o i professori non hanno ancora il tipo di tecnica culturale per usare queste macchine al meglio. Spesso gli studenti ne sanno più dei professori su come questo, si usano. Questo è scontato. Allora, realizzare online un corso pilota su come si insegna a scuola con la tecnologia digitale, lo metti su YouTube in modo che poi da Bolzano ad Agrigento, da Cagliari a Bari, imparano tutti lo guardano e imparano. Mi pare un'ottima idea. Gianni, però ti volevo chiedere, visto che tu pratichi così tanto gli Stati Uniti, praticamente stai lì, sai che i Boy Scout finalmente aprono agli omosessuali, a parte che a me mi pare una scemenza, nel senso che gli omosessuali ci sono sempre stati, solo che adesso possono ufficializzarsi, diciamo. Però l'idiozia totale è che hanno sottolineato che per i capi resta il divieto. Ma cosa significa? Che cosa significa? Che uno non può essere all'altezza di fare il capo, può essere solo un lupetto, un boy scout. Sai cosa significa? Significa che purtroppo la ragione si fa avanti a fatica nel genere umano. Che fatica però, Gianni, che fatica, non ce ne può più. Questa è la... Io sono rimasto sempre impressionato da New York, c'è una coppia di gay che abita... accanto a casa mia e che sono, diciamo, i miei vicini di casa, che ho seguito da tanti anni con loro passo passo la fatica che la comunità ha fatto per integrarsi, i successi che ha registrato. Sarebbe ora di andare verso una tolleranza, diciamo, generalizzata, un'armonia generalizzata. Armonia, ecco, non chiamiamola tolleranza, chiamiamola armonia, perché veramente di tollerare non se ne può più. Adesso invece abbiamo il nostro appuntamento. Tra parentesi, posso dirti qual è la cosa più comica, per esempio? Di questa coppia omosessuale di cui ti ho descritto sono poi molto cattolici, quindi per esempio loro sul referendum delle scuole loro voterebbero a favore del matrimonio dei gay, ma voterebbero a favore delle scuole private. Ma c'è una coerenza di fondo, certo. Niente è banale. Adesso invece abbiamo il nostro appuntamento, che anche questo per nulla banale, con il nostro Don Severino di Potenza. Caro Don Severino, cos'hai da dirci questa settimana? Ciao Don Severino. L'unica cosa che volevo dire è questa: avete saputo sicuramente che è venuto a mancare Don Gallo. Certo, immensa, allora, immensa perdita. Il Vangelo dice, il Vangelo dice, se il chicco di danno caduto in terra non muore, non porta frutto. Ecco, Don Gallo è morto perché è un uomo come tutti quanti noi, ma ora si avranno i frutti. La cosa più brutta, vergognosa, è il silenzio della Chiesa, ma è anche una garanzia che è un profeta. Speriamo sia così. Grazie caro Don Severino, ti stavo chiamando Don Gallo. Anche adesso invece con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, mentre comincio un po' a corricchiare, come sapete, no? Da brava runner verso la fine, arrivo correndo qui in trasmissione e chiudo correndo, e mi piacerebbe sottoporti come parola baratro. Baratro, certo, perché sì, è stata nominata in questi giorni. Sì, quello in cui noi staremmo per precipitare. Infatti, allora, intanto la parola deriva dal greco baratron, che significava precipizio, però nella lingua greca in particolare indicava un precipizio, quello di Atene, dove venivano gettati i condannati a morte. Poi la parola è passata alla lingua italiana, la usava già Dante, il significato è diventato quello di luogo profondo, cavernoso, buio, abisso, precipizio, e anche con significato, con uso figurato, rovina materiale o morale in cui ci possiamo perdere, quindi disastro, rovina. Ora, non so Squinzi con quale di questi significati abbia usato la parola, l'unica cosa però che ci possiamo augurare è che nel baratro, quello come quello di Atene, dove venivano gettati i condannati a morte, finiscano solo i colpevoli di tanti guai economici e non tutti noi. Grazie cara Valeria. Grazie. Quello che spero anch'io, e stavo intanto pensando, me l'ho distratta brevemente perché poi mi ero dimenticata anche di elencarvi tutti i femminicidi che ci sono stati anche questa settimana, come sempre. Questo ci conferma che invece le mezze stagioni ci sono sempre, cioè in Italia non cambia nulla. L'ONU continua a dire da tanto tempo è un crimine di Stato in Italia perché non si fa nulla per contrastarlo, e tutti i giorni succede qualcosa del genere. E molto brevemente, Francesca Carla dalla provincia di Monza Brianza, proprio un flash, perdonami. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Ho sentito prima che hanno parlato di Don Andrea Gallo, no? Della sua morte, mi ha colpito moltissimo, e mi ha colpito soprattutto vedere quanta gente lo amava. Sì, oggi ai funerali, sì, tantissima gente. L'amore proprio quello vero, tante persone marginate, persone, ecco, e proprio io lo conoscevo attraverso, insomma, i giornali, così. Allora, era un prete sopra le righe, ma vicino alla gente che ha bisogno, veramente vicino. Poi un'altra morte mi ha colpito, anche di Moustaki, proprio un giorno fa, due giorni fa. Un musicista, sì. George Moustaki, quel cantante che cantava Lo straniero. Sì, Francesca, io ti ringrazio. Adesso devo proprio passare verso la chiusura, tra poco con Gianni Riota, e ritengo... Qualcuno ha detto che Don Gallo ha unito nella sua vita cielo e terra, nel senso che è stato un uomo di grande spiritualità, di un cuore enorme, ma che era a contatto con le vere esigenze, i veri problemi della gente. In chiusura, Gianni Riota, in questi 33 secondi che ci mancano, un'idea dell'Italia, un senso, un cammino, cioè qualcosa capace di animare, di rimotivare gli italiani, chi lo può dare? Chi? Chi? Guarda, in questo panorama desolato? Io dico questo. Sì. Ti dico questo, l'ho detto stamattina, lo ripeto a te. Tutti gli italiani che si sentono stufi, stanchi, malinconici di essere italiani, prendano il treno, prendano l'automobile, vengano in Emilia, vengano a Carpi, vengano a Mirandola, guardino come gli italiani, non gli emiliani, gli italiani hanno ricostruito le zone del terremoto e tornano a casa felici di essere italiani. L'ho detto stamattina, se voi potete fare questo miracolo in un anno, possiamo fare tutto. Quindi chiunque si senta stanco di essere italiano, venga in Emilia. Grazie Gianni Riota, accogliete questo appello, salutaci l'Emilia. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.